15. Ardimento, Arduina, demenza. Arduo contenere pazienza prossimi a te, testa folle, e a quelle tue tutte non simboliche feci da cui mangi, a cui bevi, notte e giorno bibendo nel medesimo calice, birbante d'un cervello che se n'è gito fora, lasciandoti nel lutto bianco di chissà che tempeste roride arroventate e floride ginestre di silenzio entro il quale s'aggira la pazza testa, la testa perduta, la testa invasa dalla mente e larve, la mendace testa cui corpo comanda, la zucca vuota, lo sterminio di testa, la balzana, la bolsa balzellante,